Sarà anche l'anno nero di Valentino Rossi, però dopo questa domenica speciale col modello Ducati che si impone nel mondo riportando 34 anni dopo un titolo ridato a una scuderia italiana, sarà bene abbandonare il lutto per Valentino e festeggiare quello che c'è da festeggiare, perché il successo della Ducati, azienda nata nel 26 a Borgo Panigale per fare radio e rasoi elettrici, è qualcosa di così straordinariamente italiano che sembra perfino inventato, come il titolo mondiale nel calcio dopo Calciopoli. La Ducati, con i suoi 1000 dipendenti per 32.000 moto vendute nel 2006, è uno di quei misteriosi miracoli coi quali ogni tanto ci divertiamo a stupire il mondo, in particolare il Sollevante, che con Honda e Yamaha di moto ne vende quasi 20 milioni. E poi con la Ducati, diciamolo, è come se vincessero tutti gli appassionati che la guidano, perché la moto del campione, questa è la vera particolarità della casa, è quasi uguale, anche tecnologicamente, a quella dei tanti ducatisti della domenica, che provano con la fidanzata il brivido di correre a Imola. Ultima bandiera del socialismo a due ruote, con la Ducati. Oggi siamo tutti un po' Ducati. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.